Apparati che le chiama. Allora, lezione del 20 gennaio. Allora, continuiamo a leggere Flusser, la cultura dei media, il saggio e lo stato delle immagini. Saltiamo appena qualcosa e guardiamo il paragrafo strategia e fotografia. E se vediamo cosa dice, poi vediamo di commentare. Dice: la maggior parte delle fotografie, e ve ne è davvero un numero incalcolabile, non fa che attestare l'intenzione preprogrammata nella macchina fotografica. Si tratta di immagini prodotte astutamente tecnicamente perché suscitino nel destinatario l'apparenza dell'oggettività. Foto del genere in realtà avrebbero potuto essere realizzate anche senza l'intervento di un fotografo, grazie a un otturatore automatico, perché i loro autentici produttori sono il tecnico che ha progettato la macchina fotografica e l'industria che ha impiegato il tecnico. Chi scatta foto non fa nulla di diverso dall'otturatore automatico, segue le istruzioni per l'uso, diventate nel frattempo sempre più semplici e amichevoli nei confronti dell'utente, cioè user-friendly. Ma anche la maggior parte delle fotografie cosiddette artistiche rientra nello stesso genere di immagine. Il fotografo artistico cerca di estrarre dal fotogramma della macchina fotografica qualcosa che non è ancora mai stato ricavato. Tenta di produrre immagini originali, ma se gli si lascia il tempo sufficiente anche un otturatore automatico fa altrettanto. Anzi, scatta con una rapidità molto maggiore dei fotografi artistici. Esiste tuttavia, e qui Flusser ci lascia sempre, esiste tuttavia un numero molto esiguo di fotografie in cui è possibile vedere l'esatto capovolgimento di questa intenzione. In esse ciò che conta è precisamente sorprendere con astuzia, l'astuzia del programma, della macchina fotografica, e costringere l'apparato a fare qualcosa per cui non era stato costruito. L'intenzione dei produttori di tali fotografie è di creare delle immagini che si mettano di traverso rispetto al diluvio delle immagini, immagini che costringano gli apparati a funzionare contro il loro peculiare progresso apparatico. L'esporre e l'osservare tali immagini istituisce nell'oceano di immagini un'isola su cui non solo si trova rifugio, ma da cui si può anche tentare di riprendere in mano le redini da cui gli apparati si sono ormai svincolati. Qui sorge la domanda sul perché proprio le fotografie e non altre tecnoimmagini, per esempio i video o gli ologrammi, dovrebbero venire beffate con questa astuzia. A prima vista questa sembrerebbe una domanda mal posta, non esistono forse delle esposizioni di immagini tecniche che tentano proprio questo superamento astuto degli apparati? Ma considerando le cose più da vicino, la domanda si rivela una buona domanda. Questo è il punto che sottolineava anche lui prima. Eccezione fatta per le macchine fotografiche, tutti gli apparati che producono immagini non sono ancora stati sfruttati integralmente e celano quindi ancora in sé delle sorprese per i loro utenti. Ciò vale anche per la cinepresa. Filmare sperimentalmente è ancora possibile. Adesso cercheremo di chiederci perché. E tutte le esposizioni artistiche citate in precedenza sono dedicate appunto a tali esperimenti e a tali apparati. La macchina fotografica invece va ormai considerata come del tutto trasparente, anzi come ridondante, e molti fotografi parlano della fine ormai incombente del fotografare. Se qualcuno fa oggi delle fotografie, virgolette, sperimentali, ciò accade perché non ha capito che dalla macchina fotografica resa trasparente non esce fuori più nulla con cui si possa sperimentare. La cosa che conta piuttosto è ingannare con l'astuzia un apparato ormai pienamente automatizzato, che perciò continua a funzionare per forza d'inerzia, sputando fuori milioni di immagini. Ma esiste anche un'altra spiegazione del fatto che proprio le fotografie sono ciò che ci vuole per beffare con astuzia la tecnologia. Le macchine fotografiche, al pari di tutti gli apparati nati dopo di esse, sono apparati che producono immagini e le foto sono immagini moltiplicabili e diffondibili come tutte le immagini tecniche. Ma le foto sono ferme e silenziose e aderiscono a una superficie, mentre tutte le altre immagini tecniche o si muovono o emettono suoni o fanno tutte e due le cose o si estendono anche tridimensionalmente e acquistano volume, e allude ovviamente alla olografia. Perciò le fotografie a prima vista appaiono come le vecchie immagini, ed esistono effettivamente immagini che precedono l'avvento degli apparati, le litografie per esempio, che costituiscono un ponte tra le vecchie immagini, diciamo quelle pittoriche tradizionali, e le fotografie. Se perciò si inganna con astuzia la macchina fotografica, la si costringe in un modo strano a produrre contro il programma in essa incorporato qualcosa come una vecchia immagine. I produttori di tali immagini cercano, per così dire, di costringere un apparato a ritornare indietro a Lascaux. Adesso in realtà c'è ancora un ultimo capitoletto che sono le immagini di casa pratica, ma adesso mi fermo un attimo qua e commento per come l'ho capito io questo pezzo, insomma, e forse come l'ho capito meglio ora che l'ho letto per la decima volta che non la prima volta che l'ho letto. Allora, in qualche modo mi pare che qua, allora, per certi versi lui sopravvaluta o sottovaluta delle cose. Probabilmente l'idea che, gli apparati tecnici che producono immagini in movimento siano meno, diciamo, esaurite le loro possibilità rispetto a quelle delle macchine fotografiche, forse non è tanto vera, o è vera solo in un senso un po' banale e, come dire, numerico, nel senso che, cioè numerico nel senso di, come dire, statistico, quantitativo, ci sono molte più possibilità, molte più, no, cose di ci sono molte più possibilità, molte più evidentemente combinazioni possibili di immagini in movimento rispetto a delle immagini ferme. Però questa potrebbe essere invece una cosa, come dire, non vera o non precisa, non banale, o comunque pura soltanto numerica. Dateci 10 anni, 20 anni, 100 anni di tempo e avremo lo stesso problema con le immagini in movimento rispetto alle immagini. Quindi non è tanto questa la cosa. È vero invece un'altra cosa, perché, cioè, questo si può dire in generale, più che non l'immagine fotografica è più paradigmatica, cioè può essere presa come un paradigma in generale dell'immagine, perché ha una caratteristica simile a quella delle vecchie immagini, cioè le immagini sono ferme, stanno lì, stanno su di un supporto. In realtà adesso, diciamo, l'apparizione degli schermi dei computer cambia ancora le cose, perché non so quanto si possa dire che lo schermo di un computer è un supporto diciamo, l'immagine digitale, fra le tante innovazioni che ha introdotto anche questa, probabilmente, che ha reso obsoleto il concetto di supporto. Non c'è più un supporto delle immagini digitali. Da un punto di vista fisico, il supporto dell'immagine è quella minuscola frazione, quei pochi micron quadri del chip digitale nel quale sono contenute le informazioni numeriche. Lo schermo non è un supporto, è uno strumento di visualizzazione, che è una cosa differente. Questo in parte però varrebbe anche per il cinema. Il cinema chimico ha un supporto, il supporto dell'immagine filmica tradizionale analogica è la pellicola cinematografica, è la pellicola, non è l'immagine che io vedo proiettata, non c'è il supporto, quindi già lì c'è una questione di proiezione che è simile a quella del monitor, insomma, sono caratteristiche simili a quella del monitor. Quindi l'idea di supporto funziona bene per la fotografia analogica e per la pittura, lì c'è un supporto. Poi negativo, positivo, un po' più complicato nel caso della fotografia, però c'è chiaramente un supporto, sia del positivo che del negativo. Quando stampo su di un supporto, cazzo, stampo su della carta, su una come superficie, insomma, su una carta specifica o anche su carta comune posso stampare. Nel caso dell'immagine chimica non posso stampare su carta comune, nel caso dell'immagine digitale sì, ma perché lì non c'è il supporto, questa è l'idea. Comunque, allora, la mia tesi, quello che io posso aggiungere a quello che dice Flusser, che Flusser non dice o che dice in maniera forse ancora un po' confusa, è questo. Allora, da un certo punto di vista la fotografia rende esplicito ciò che era soltanto implicito nella pittura. E cioè che cosa? Dicevo prima, cioè rende esplicito più di quanto non fosse come dire, venuto fuori prima, la differenza fondamentale tra l'immagine e la parola. E qual è questa differenza fondamentale? Adesso ripeto alcune delle cose che ho già prima detto a te, ma intanto loro non c'erano e poi non c'era neanche il registratore, quindi le ridiciamo per questo. L'esperienza che noi abbiamo di fronte all'immagine, in questo senso tanto a quella pittorica quanto alla fotografia, è un'esperienza olistica, totale, globale, immediata, di per sé non analizzabile in quanto tale. Ogni tentativo di analizzare in termini linguistici una immagine di qualunque tipo è un tentativo certamente possibile, perché è stato fatto non una ma centinaia di migliaia di volte, ma come dire, mette in relazione due sistemi fondamentalmente, direi quasi ontologicamente differenti, quello della parola e quello dell'immagine. L'esempio che ho fatto prima è per esempio tra la descrizione della nave di Ulisse che affonda nella Divina Commedia e la parola ira in giù come altrui piacque, finché il mar fu sopra noi dischiuso, mi evoca delle immagini mentali, ma il rapporto che io ho con questa descrizione di una nave che affonda è diverso da quello che ho quando vedo un quadro di una nave che affonda. Quando vedo il quadro, o quando vedo la fotografia, o anche quando vedo una simulazione diciamo digitale, anche quando vedo una immagine senza, diciamo, referente, quindi di una nave inventata che non esiste, che affonda in un mondo che non esiste, quello dell'immagine di Tarkovsky. Insomma, in tutti i casi, quando vedo un'immagine di qualunque tipo, io ho una percezione immediata, simultanea, totale dell'evento, di quell'evento. Rimango colpito da questa immagine. L'emozione, il rapporto che io ho con questa immagine è il rapporto, diciamo, è, come dire, l'emozione che mi dà una simulazione del vero fatta con gli stessi strumenti del vero. Certamente io so, diciamo, distinguere tra un'immagine fotografica o pittorica di una nave che affonda e la vera immagine che affonda, ma fra le due esperienze, la nave vera che affonda e il quadro dell'immagine che affonda o la foto della nave che affonda, c'è una analogia, c'è una, come dire, somiglianza molto forte. Il senso che è prevalentemente impegnato dal punto di vista umano, dal punto di vista di colui che percepisce, è il senso della vista. Il senso della vista è un senso, diciamo, sincronico. In un momento mi dice questo è quello che ho intorno, posso poi lavorarci sopra e andare a analizzare sinteticamente, allora certo che entra la dimensione del tempo, ma diciamo il primo rapporto che ho con un'immagine è quello del colpo d'occhio. Il rapporto che ho con la descrizione della nave che affonda, fatta da Dante o fatta da qualunque altro scrittore, non è un rapporto sincronico, è un rapporto che, per quanto sono solo due o tre versi, ma ci vuole un certo tempo per leggerli o per pronunciarli o per sentirli pronunciare, quindi è un qualche cosa che si stratifica a poco, in un periodo anche breve, dentro di me, quindi non è un'immagine, non è una impressione immediata che io ho, è un'impressione mediata dal senso del tempo e da una soggiacente comprensione dei mattoni, degli elementi costitutivi di cui è fatta quella descrizione, i suoni del linguaggio o le lettere stampate o manoscritte nella cosa. Comunque in tutti e due i casi si tratta di un processo temporale, e di un processo discontinuo, discreto, analizzabile, esperibile. Quindi nel momento stesso in cui io faccio l'esperienza di una descrizione verbale di qualcosa, di un racconto, io ho già c'è implicita una, la, come dire, la possibilità di analizzarlo e di andare a decostruire i meccanismi, sapendo che il sistema di tratti pertinenti, come dicono i semiotici e i linguisti con cui ho costruito quel discorso, mi è accessibile. Io so quali sono i suoni del mio linguaggio, lo so più o meno bene, ma insomma tutti i parlanti sanno distinguere, tutti i parlanti italiani e occidentali in genere, di lingue indoeuropee e semitiche sanno distinguere una L da una R, un cinese e un giapponese no, e quindi però ognuno loro hanno i loro suoni pertinenti e noi i nostri, che possono anche non coincidere, ma comunque diciamo ci sono. La costruzione, cioè il processo attraverso il quale, mettendoci meno i suoni, si costruisce una qualunque produzione verbale è noto più o meno bene al parlante. Nell'immagine ciò non accade. Certo che l'immagine è analizzabile, certo che in un quadro posso andare a distinguere quelle pennellate costituiscono la figura di Napoleone, questa è quella del suo cavallo, queste sono le Alpi che gli stanno dietro, parlando del quadro di Napoleone dipinto da David, per esempio, in cui c'è questa roba terribile, lui che sta lì a cavallo sulle Alpi, e vabbè, è un quadro allegorico, insomma, comunque non diciamo realistico, ma c'è. Posso farlo, però non c'è nessuna, come dire, tutta questa, tutti questi elementi costitutivi del quadro sono elementi costitutivi che io ricavo a posteriori, dalla totalità che è quel quadro, o quando guardo la foto di Robert Capa del miliziano spagnolo che muore, che probabilmente era una finta, poi si è scoperto dopo, insomma, ok, non importa questo. Posso dire, sì, questa è la figura, questo è lo sfondo, posso farlo, ma quando io la vedo, vedo tutto insieme, non, e i tratti pertinenti che il sistema di pertinentizzazione, cioè di individuazione dei tratti di base che utilizzo per quella certa immagine, non mi andrà bene per un'altra immagine, tranne alcune generalissime categorie, va bene, cioè, dice, come dire, figura sfondo, primo piano sfondo, questo va bene, cioè, però poi il modo come la figura emerge, in alcune immagini, per esempio pittoriche, poi questa roba si confonde in molti quadri surrealisti, per dirne una, in tutta la pittura cubista, anche nei quadri di un figurativo come Bacon. Quando guardate i volti di Bacon non sono mica tutti chiari, e qual è lo sfondo e qual è il volto, cazzo, a un certo punto c'è una mescolanza, ci sono zone del volto in cui, cioè, e allora quindi vuol dire che c'è una grandissima possibilità, ma insomma non c'è nulla di simile a un sistema di scritto come quello che c'è nella lingua e di come dire, mattoni, diciamo, descrivibili. Allora, allora perché dico che questa cosa esce fuori meglio con la fotografia che non con la pittura? Perché nella pittura, nell'immagine che Fuchs chiama tradizionale, insomma, la relativa lunghezza e il carattere, diciamo, di tempo lungo che occorreva per costruire un'immagine di questo tipo e la complessità procedurale che occorre per fare un quadro, stendere i colori, fare la pennellata qui, fare la pennellata là, fare il gesto, insomma tutte quelle cose qua, mettevano in primo piano una cosa che nella foto non c'è, mettevano in primo piano l'intenzionalità dell'autore. Usiamo sempre lo stesso esempio, il quadro di Napoleone di David, io so che c'è stata una persona chiamata Jean-Louis David, che non è quello non sono i parrucchieri, ma è, non è mai il parrucchieri, ma è quel pittore degli inizi del XIX secolo, che ha dipinto tante scene dell'autore francese, a un certo punto dipinge anche Napoleone, So che cosa voleva dire con quel quadro, so che era un maledetto ruffiano che voleva arruffianarsi Napoleone, che quel quadro l'ha fatto per leccare il culo a Napoleone, e poi tecnicamente, se sono un tecnico, vado lì vicino e guardo come sono i colori. Cioè, la presenza di un autore e di una serie di azioni, di una lunga e complessa serie di azioni intenzionali da parte di una persona per fare quel quadro, sono chiarissime, sono inequivocabili. Poi certamente io guardo il quadro come prodotto mi colpisce olisticamente, globalmente, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi dopo, eccetera, dico, vabbè, insomma, quindi c'è questa... E quindi mi sfugge, sapendo che io posso fare un discorso sulle intenzioni dell'autore e quindi anche su vari livelli di stratificazione di come queste intenzioni dell'autore si sono riflesse nel quadro. Dice, ah, è andata così, ha fatto questa pennellata, poi ha fatto l'altra, poi ha fatto questa, poi qual è il rapporto tra appunto figura sfondo, il rapporto dei colori, i campi cromatici, l'accostamento, eccetera, eccetera. E mi pare di poter trattare il quadro come se trattassi un testo scritto e di rabbia e posso analizzarlo, eccetera. Perché? Perché c'è questa mediazione. Questa mediazione salta nella foto, perché? Perché la foto, c'ha ragione Flusser, a dire che l'intenzione fondamentale quando si fa una foto non è quella del fotografo, o meglio, non è in prima battuta quella del fotografo. Il fotografo deve costruirsi con più difficoltà uno spazio di intenzionalità usando una macchina fotografica che non facendo un quadro. Quello che guadagna da una parte rapidità e versatilità nell'avere l'immagine lo perde dall'altra perché si deve affidare ad un sistema che gli ha comunque confiscato una gran parte di quella intenzionalità che il sistema tecnico della pittura non confiscava, perché il sistema tecnico lungo, noioso, devo saper fare un sacco di cose, non solo, addirittura anche preparare i colori. Pensiamo a prima che arrivi la pittura industriale, no? Cioè Piero della Francesca si pigliava i suoi lapislazzuli, se li pestava lui nel mortaio per avere il magico azzurro dei mantelli delle Madonne, per cui era noto già all'epoca, e tutti i pittori facevano così. Poi quando comincia l'epoca industriale nell'Ottocento cominciano a uscire, no, te li fabbrico io i colori, allora cosa fa il pittore? Tavolozza e li mescola soltanto, ma non deve prepararli. Però c'è sempre questa. Tutto questo nell'immagine fotografica non c'è. Quindi nell'immagine fotografica, è interessante perché in essa emerge con una grande prepotenza questo di carattere, questa di caratteristica, che è quella appunto di non lasciare spazio automaticamente di per sé alla critica, al commento, alla elaborazione linguistica a proposito di tutte cose che si possono fare, certo, e sono state fatte, ma ripeto, hanno caratteristiche diverse. Il rapporto che c'è tra la Divina Commedia e gli innumerevoli commenti alla Divina Commedia non è lo stesso rapporto che c'è tra il Napoleone di David o una qualunque Giuditta e Oloferne, diciamo quella di Caravaggio, e tutti i commenti fatti su quel quadro. Perché? Per una ragione molto semplice, perché nel caso della Divina Commedia e dei commenti alla Divina Commedia, lo strumento che si utilizza è lo stesso in tutti e due, sono entrambe produzioni linguistiche. C'è una produzione poetica, c'è uno che ha scritto una poesia, un libro meno lungo, e ci sono altre persone che hanno interagito, ma usando lo stesso strumento che ha usato Dante. Certo che posso scrivere commenti da Dante anche in inglese, tedesco, eccetera, ce ne sono detti bellissimi, ma sono lingue diverse, ma è sempre la lingua. Quando invece io parlo, quando Michel Foucault fa 20 pagine nelle Parole e cose sull'As Meninas di Velázquez, stravolge il quadro. Certo che si parla di quel quadro, certo che è impossibile leggere quelle 20 pagine se non c'hai almeno vicino una foto di quel quadro o se non sai bene come è fatto. Ma è si tratta di due produzioni che si situano su piani diversi, per certi versi, da un certo punto di vista, incommensurabili. Questo l'ho già raccontata 50 volte, quindi forse l'ho raccontata già anche a voi, ma insomma, allora io ho visto il quadro riprodotto quando ero molto piccolo e su un libro bello di quelli con le costruzioni grazie e già mi ha colpito per i cazzi miei. Poi mi sono dimenticato per anni, quando ho letto Foucault, leggere quelle 20 pagine è veramente un'esperienza emozionale, perché c'è un'acutezza di e lui ti spiega non solo tecnicamente i piani così di fuga, ma ti spiega perché filosoficamente quel quadro è importante, perché segna la modernità, per la questione della distanza, eccetera, eccetera. Però non l'avevo mai visto. Da quando l'avevo visto da piccolo a quando ho sentito Foucault e sono passato del tempo, la lettura di Foucault e quel pochino di riflessione che ho fatto anch'io, perché poi ho utilizzato la cosa di Foucault in un libro che ho scritto a metà degli anni 90, che è Il corpo virtuale, e quindi ho ripreso tra l'altro, e come dire, avevo una ormai assuefazione a quell'immagine da un certo punto di vista. In realtà mi sono accorto dopo un po' che non ero affatto assuefatto all'immagine. Ero assuefatto all'impressione che mi aveva fatto la prima volta che l'avevo vista, certamente, e alla successiva argomentazione di Foucault. Tanto è vero che quando andai al Prado, molti anni dopo, a vedere dal vivo Las Meninas, ero emozionato, ma più che altro perché era un quadro che era stato importante per la mia vita intellettuale, no? E quindi avevo letto, ci avevo scritto qualcosina anch'io partendo da Foucault, senza grande originalità, ma insomma, quindi ero emozionato perché ricercavo in quel quadro la lettura di Foucault o quella variante della lettura foucaultiana che poteva essere stata, essendo presuntuosi, eventualmente la mia di molti anni dopo. L'esperienza che ho avuto di fronte al quadro è stata diversissima. Appena mi sono trovato di fronte al quadro davvero, quindi nelle sue dimensioni reali, nel suo contesto, certo, quindi è chiaro che questo è uno dei pezzi forti del Prado, loro lo hanno come valorizzato, è più facile valorizzare Las Meninas che valorizzare la Gioconda, che è un cazzettino piccolo così, quindi il Louvre ha dovuto così, poi vabbè, lì poi ci sono i giapponesi che ci pensano, qui c'è la fila giapponese, che quando sono stato io non c'era nessuna fila davanti alla Meninas, se c'era al contrario, c'era una donna che si era sentita male in quel momento, per cui io sono stato un quarto d'ora circa fuori dalla sala, sbirciando il quadro ma senza guardarlo, perché comunque si vedeva male, quindi non era chiaro. E poi solo dopo, quando la povera signora è stata portata via, allora siamo potuti entrare. Bene, io sono entrato e d'un botto io mi sono dimenticato di Foucault, di tutto, cioè sono stato ripreso, cioè come dire, l'immagine ha rifatto su di me il suo lavoro, quel lavoro che devono fare le immagini, mi ha preso, mi ha catturato e mi ha inibito, perlomeno per un istante, la prima immagine, cioè, mi ha inibito ogni considerazione critica, non me ne potevo più un cazzo delle linee che aveva tirato Foucault, immaginarie dalla cosa, eccetera, o di qualsiasi strumento, non vedevo le linee mentali, il punto di fuga virtuale, dove sta il pittore che sta sullo sfondo e io che sono dovrei essere il suo simmetrico, certamente ho cercato, ma si fa istintivamente questo, di fronte a qualunque immagine di certe dimensioni, no? Che ti il punto di vista migliore, insomma, no? Il punto di vista migliore, che questo è il trucco che il trucco che si usa quando si dipinge una mossa, così dipingi da un punto di vista molto molto così, se tu ti metti di fronte non capisci un cazzo, per esempio nel quadro di Holbein dei due ambasciatori c'è il teschio, che se tu guardi di fronte il teschio non si vede un cazzo, vedi una lunga ellisse nera, poi ti metti molto defilato quasi sulla parete, allora vedi che è il teschio. Quindi vedete che l'immagine ha un rapporto tra l'immagine e la funzione di questa immagine, che è diversissimo rispetto al rapporto che si ha fra un testo e la funzione del testo. Non ci sono Cristi. Allora, certamente questa cosa emerge, è sempre emersa, è chiara, eccetera, in tutte le immagini storiche, anche queste qua, come dire, tradizionali, ma, ripeto, questa immediatezza, questo carattere di, possiamo pure dire, di prepotenza, di imperialismo, cioè, l'immagine ti conquista, se è bella, se è fatta bene, se è ben costruita, non ti lascia grande spazio, almeno per un certo periodo, breve o lungo che sia, ma insomma, il colpo d'occhio, la prima impressione di fronte a qualsiasi quadro, quando vai, cioè, perché in fondo il sistema dei, come dire, musei è poi così stancante, non è così, perché te ne danno, ce n'è un casino dietro, cazzo ragazzi, va? Cioè il Louvre per vederlo bene bisognerebbe starci una settimana, io l'ho fatto in 2 giorni e mezzo la prima volta che l'ho visto, perché non avevo voglia di stare, perché comunque la zattera di Medusa, Jericho, queste robe qua, cioè quelli che almeno già conosci devi, cazzo, non puoi stare lì a passare come fanno i giapponesi, diciamo che andiamo a vedere l'altro, cazzo, è un casino, cioè ti incazzi e dopo un po' che fai questo tipo di lavoro, adesso diciamo la sindrome di insomma Stendhal può essere una puttanata, però è anche possibile che a qualcuno gli venga il mal di testa o gli giri la testa quando diciamo, ne ha viste troppe, quindi questa è la cosa, poi dopo se sono messe in posti, devo dire, realmente diciamo punitivi come sono gli Uffizi, cioè che in cui c'hai un sacco di roba in spazi assolutamente incongrui rispetto a tutto quello che c'è, insomma è ancora peggio. Allora questo è indubbio, questa cosa c'è, però questa caratteristica dell'immagine non ha avuto, secondo me, modo di imporsi, di spiegarsi, di no? Troppo a lungo, perché? Perché il modo di produzione dell'immagine tradizionale è un modo di coproduzione che mette in primo piano l'intenzionalità, quindi il coprocesso, la presenza della persona, dell'autore che ha costruito, che ha fatto, che ha prodotto realmente quella immagine, presenza che proprio per le caratteristiche che abbiamo visto prima, viene presupposta e addirittura poi dall'apparato di cose diciamo conoscitivo costruito intorno al quadro viene messa in primo piano, quindi uno dice vai, questa è un'immagine, e questo forse spiega perché ci sia ancora tutt'oggi questo tentativo di fare una analisi delle immagini con gli stessi strumenti con i quali si fanno le indagini sui testi, quindi diciamo l'idea di avere una semiotica dell'immagine. Io non credo che sia possibile avere una semiotica, oppure si può chiamare semiotica dell'immagine, ma in realtà non è la stessa cosa della semiotica di un testo, insomma, perché, come ripeto, i procedimenti sono diversissimi. Ora, la fotografia cosa fa? La fotografia di per sé ci sottrae la figura dell'autore, non ce l'ha sottratta in realtà poi, perché noi sappiamo, le foto sono firmate da chi le ha fatte, eccetera, eccetera, questo fino dai suoi inizi, sino dalle primissime foto scattate da questo qua, che non mi ricordo mai come si chiama, questo americano che già alla fine del Novecento ha cominciato a fare i primi libri, ha scritto un libro che si chiama La matita della natura, credo, The Pencil of Nature. È una raccolta di foto scattate da lui e commentate da lui, in cui per ogni foto spiega il punto di vista, come si fa, è una roba molto ingenua, non è una vera semiotica, insomma, però è, adesso non mi ricordo il nome, cazzo, perché vabbè, se ne parla diffusamente in un libro della Krauss, ma ne parlano tutte le storie della fotografia, non so se bene ne parla, credo di no. Nella sua piccola storia della fotografia, comunque questa è una... Allora, sappiamo che c'è l'autore, però la presenza dell'autore, cioè Insomma, mentre l'autore non deve combattere per emergere da un quadro, sappiamo, deve un po' di più combattere per emergere da una fotografia. Tutto il sistema dell'arte che è costruito nel Verde e Maia, ovvio, lì ci sarà l'autore, questo allora Salgado, allora diciamo, a vario tipo, diciamo, c'è un tentativo di riportare la foto a una dimensione autoriale che non c'è solo nell'arte, c'è anche nella moda, c'è anche in un sacco di cose. Però obiettivamente su questo Flusser non ha torto, cioè insomma chi cioè diciamo in questo caso l'intenzione del programma, come lo chiama lui, prevale su quella dell'autore. E quindi per questo lui dice cioè, bisogna trovare, lui dice, cioè come dire, bisogna trovare il modo di ingannarlo, diciamo come dire l'autore. Allora qui però, perché voglio adesso, allora quindi una prima diciamo, conclusione che comunque possiamo trarre, possiamo interpretare questo approccio che ci dà Flusser al fatto di dire le immagini, lo chiama immagini quiete o immagini transapparatiche, cioè che vanno al di là delle intenzioni dell'apparato, possiamo essere più o meno convinti da quello, dalla sua diciamo, argomentazione, da quello che lui dice, da quello che lui propone, però diciamo dobbiamo riconoscere che almeno parzialmente lui prende, diciamo, esplicita, rende, fa diciamo emergere almeno uno degli aspetti di questa immagine. Poi possiamo discutere se sia il più importante, se sia il meno importante, se coesista o interagisca davvero con qualche altra caratteristica. Però da un certo punto di vista questa come caratteristica c'è. Adesso invece diciamo azzardo una possibile critica a questo modo di ed è una critica che non so se è una critica vera, ma insomma diciamo, ed è questa famosa nozione di cui vi ho già forse parlato, di inconscio ottico, che si trova in un breve tratto della piccola storia della fotografia di Benjamin, che è uno scritto di Benjamin che potete trovare in genere insieme in italiano, è stato stampato insieme all'opera d'arte nell'epoca della sua velocità tecnica, nello stesso libro sono 5 saggi diversi, che poi sono saggi piccoli, brevi, quindi anche per un librettino ci stanno. Allora, a un certo punto, nella piccola storia della fotografia, Benjamin osserva che il mondo come si offre all'occhio della macchina fotografica non è lo stesso mondo che si offre all'occhio umano. Qua ci sono due, le differenti caratteristiche tecniche dell'occhio, del sistema di visione umano rispetto a quello automatico di una macchina fotografica analogica o anche adesso proprio digitale, ma insomma diciamo specialmente, in questo caso ha delle conseguenze, perché, cioè, detto insomma banalmente, adesso è una cosa banale, ma insomma, poi ci sono artisti che hanno lavorato su questa idea, come per esempio Vaccari, che ha scritto un libro sull'inconscio tecnologico che uscirà tra breve, un libro vecchio degli anni 50 che uscirà tra breve, mi dicono, per Einaudi. Io mi sto mordendo il fegato perché è un anno circa che voglio ripubblicare quel libro, però ci ho messo troppo tempo io, vabbè, e quindi ho scoperto che mi ha fregato Einaudi. Comunque sono comunque contento che il testo sia accessibile, si chiama L'inconscio tecnologico, ma insomma sì, lui ha una visione più vasta. Adesso stiamo all'osservazione di Benjamin. L'osservazione di Benjamin è insomma questa, che con lo strumento fotografico o anche volendo cinematografico, con qualche trucco in più tipo con l'accelerazione o con i rallenti, io posso vedere, cioè posso vedere delle cose che il mio occhio normalmente non può vedere. Questo è ovvio. La stessa ragione per la quale la proiezione successiva di 24 immagini fisse, ferme, genera nel mio occhio l'illusione del movimento, che è il fenomeno su cui si guarda il cinema, la stessa ragione, cioè la persistenza dell'immagine sulla retina e il tempo in cui persiste la retina, che è circa di un decimo di secondo, hanno come effetto il fatto che io non possa vedere davvero la realtà. Noi in realtà il nostro occhio vede già una realtà in qualche maniera culturalizzata, cioè quindi io sono in grado di cogliere alcune variazioni eventualmente della vostra fisionomia quando vi guardo, ma non tutte, perché quelle più rapide non le vedo. La macchina invece le vede, perché avendo un tempo di esposizione di gran lunga inferiore, anche nei casi più lunghi, di esposizione più lunga, quindi gran lunga inferiore al decimo di secondo, quindi di 5 volte, 6 volte, 10 volte, 100 volte, o anche più, di secondo, la macchina è in grado di cogliere delle cose che il mio occhio non vede. Questo è quello che Benjamin chiama l'inconscio ottico. Allora si potrebbe forse obiettare a Flusser che, cioè, allora, o questa capacità, o questa caratteristica di vedere immagini che l'occhio umano non riesce a vedere, fa parte del programma, come dice lui, e in questo caso bisognerebbe, forse, non lo so, si potrebbe pensare, bisognerebbe concludere che questo programma non è poi così cieco, così, come dire, automaticamente programmato, perché se riesce a farmi comunque vedere delle cose che il mio occhio non vede, forse in qualche modo è, io credo di insomma di poter indovinare come vi risponderebbe Flusser comunque adesso vi rispondo io, non è Flusser ovviamente, purtroppo non possiamo più sapere cosa avrebbe risposto, però penso io che probabilmente Flusser ci direbbe che semplicemente il programma di questo apparato, di questo insieme di macchine, è un programma molto sofisticato e che quindi ci consente, cioè amplia di molto la nostra gamma delle, come dire, possibilità, ma che ciò nonostante anche l'emergere di immagini che noi non abbiamo visto sono sempre in qualche maniera immagini preprogrammate, cioè l'intenzione, lui potrebbe rispondere così, riprendo il testo vero così si tratta di immagini prodotte astutamente, tecnicamente, perché suscitino nel destinatario l'apparenza dell'oggettività. Potrebbe rispondere Flusser, l'apparenza dell'oggettività viene suggerita, suscitata in chi vede anche da questa maggiore finezza dello sguardo della macchina rispetto al nostro. Il fatto che la macchina ci faccia vedere delle cose che il nostro occhio non riesce a vedere viene fatto in modo da dirci: guarda, questa è la vera realtà, è qualcosa che il tuo occhio non può neanche vedere, ma io la posso vedere, io posso dartela, io posso. Poi ci direbbe Flusser, ovviamente noi sappiamo che anche quell'espressione del viso di una persona o del movimento di una foglia che l'occhio umano non può percepire, anche quello è illusoriamente realtà, non è che quello sia più realtà di quella che io vedo col mio occhio, ma la macchina per come è diciamo suggerita mi suggerisce questo genere di cosa. Una prima conclusione comunque può essere questa. Naturalmente non c'è nulla di definitivo, cioè questo non vuol dire che con le immagini si possono fare solo certe cose o non altre, ma diciamo le cose che in prima battuta, cioè il rapporto che almeno in prima approssimazione ha l'essere umano con l'immagine rispetto al rapporto che ha con la parola potrebbe essere sintetizzato quindi forse in questo modo. E ripeto, da questo punto di vista la fotografia sarebbe importante non tanto per i suoi aspetti innovativi, quanto per la sua continuità con le vecchie immagini, perché in realtà esplicita in modo più chiaro quello che era già implicito nelle vecchie immagini. In realtà, direbbe Flusser, è proprio questo suo rendere esplicito ciò che era implicito che rappresenta il suo carattere tecnico, il suo carattere di una immagine prodotta da un apparato. Quindi quello che vi dico adesso probabilmente può essere letto in modo neutro rispetto a come poi, ma questo è semmai voglio dire un problema successivo. Ma allora quello che possiamo probabilmente concludere, non in generale, provvisoriamente, cioè una prima tappa di questo discorso può essere questa. Nel discorso, cioè nella parola, nella produzione discorsiva, nella produzione di racconti o di produzioni verbali, è insita, è implicito, è implicita la dimensione della critica, cioè della considerazione. Il linguaggio è fatto per poter essere segmentato, analizzato, commentato e quindi criticato. E quindi, cioè, è implicita nella dimensione del linguaggio l'esistenza di un modo diverso, la possibilità dell'esistenza di un modo diverso di vedere, non di vedere, ma di descrivere le cose, di rappresentare le cose. La rappresentazione verbale quindi sarebbe una rappresentazione diciamo di per sé criticabile, aperta alla critica, aperta alla discussione e alla e quindi anche alla metamorfosi, anche al mutamento, anche alla trasformazione. Attenzione, anche qua bisogna dire che c'è stata un'invenzione tecnica che ha esaltato questa caratteristica del linguaggio, che a lungo è stata misconosciuta, o forse addirittura, se voi fate un discorso di questo tipo, se aveste fatto, oggi è quasi impossibile farlo, a un rappresentante di una cultura orale, se voi dite a uno che non conosce la scrittura, cioè guarda che il linguaggio è una dimensione che consente la critica, consente l'analisabile, probabilmente lui vi guarderebbe inorridito, perché il linguaggio per lui probabilmente è esattamente l'opposto. Il linguaggio è una sorta di fenomeno magico che crea un'atmosfera magica in cui tu ti immergi e che tu non puoi discutere manco pa capa, manco morto puoi discutere le parole dello sciamano, non si possono mettere in discussione. Le parole dell'anziano del villaggio che racconta la storia, il mito, non può essere discusso. In realtà noi sappiamo che il mito cambia realmente anche solo quando passa da una persona diciamo all'altra, cambia durante, ovviamente, ma l'uomo della cultura orale non se ne rende conto. Che cos'è che ha fatto emergere questa caratteristica invece del linguaggio? Che era implicita anche nel linguaggio parlato, ma non veniva fuori in modo così chiaro. Cosa è stato? La scrittura. È stata la scrittura che ha reso, forse dice, cazzo, ma guarda un po' però, se le mie parole possono essere descritte, possono essere rappresentate su una superficie, su una carta con dei segnetti che stanno uno dietro l'altro, eccetera, eccetera, beh, allora vuol dire che posso cambiare di quei segni, potrei fare una cosa, quindi potrei cambiare anche i suoni, potrei cambiare, cioè. Quindi quello che nella fase orale, quindi nella fase più lunga della storia dell'umanità, non è apparso, non appariva, era difficile che apparisse, no? Come dato del linguaggio, con la scrittura appare. Un po' come vi ho detto, mi pare si possa dire, la fotografia ha fatto emergere qualcosa che c'era già anche nel sistema delle immagini precedenti, ma che non era così esplicito, non era così, come dire, visibile. D'altra parte, voglio dire, le tecniche comunicative ed espressive sono fatte apposta per questo, cioè rendendo più fluido, cioè togliendo ostacoli di tipo temporale, spaziale, eccetera, alla diffusione delle produzioni, fanno ovviamente per forza di cose, mettono in luce, rendono più chiare, consentono più facilmente di vedere proprietà e caratteristiche che senza di loro non sarebbero state, come dire, visibili. Allora, mentre la parola quindi porta dentro di sé costitutivamente, nella proprio per il fatto di essere parola, per il fatto per il fatto di essere una rappresentazione temporale e lineare, sequenziale dell'esperienza fisica o mentale degli esseri umani, per questo solo fatto la parola sopporta, o forse anche nelle condizioni adatte, produce una disposizione alla critica, alla rielaborazione, alla riscrittura o alla l'immagine no, l'immagine non fa questo lavoro. Per il modo in cui si presenta l'immagine, e dico in questo senso tanto le immagini antiche, vecchie, tradizionali, quanto quelle tecniche, in questo sono, come dire, uguali, l'immagine ha delle caratteristiche diverse. L'immagine non è un fenomeno sequenziale, viene prodotta sequenzialmente in alcuni mesi da un pittore in un centro di stipendio, secondo la macchina fotografica, ma ci vuole sempre un minimo di tempo. Però poi, una volta che è prodotta, non porta più traccia esplicita, immediata di questo processo che l'ha portata. Si presenta come un oggetto dato di fronte a noi, totale, onnicomprensivo, ci dà una esperienza non sequenziale, immediata, diciamo parallela, sincronica e non diacronica. E quindi non favorisce diciamo il lavoro su di essa che favorisce la parola su di essa. Però Flusser dice questo, cioè non favorisce noi nel fare questo lavoro sull'immagine, perché probabilmente... Sì, no, dico, però lui, nel senso, ammette che ci possa essere una critica per immagini sull'immagine. No, ma infatti adesso voglio arrivare anch'io, perché il testo di Benjamin che vi leggo dopo la pausa, perché poi adesso ci ripetiamo un po', porta proprio a questo. Però siccome vogliamo, allora diciamo in prima approssimazione, l'immagine, essendo un sistema di produzione di oggetti basato sulla continuità e non sulla discontinuità, basato sulla sincronia e non sulla diacronia, basato sul parallelismo e non sulla diciamo, sequenzialità, basato sulla apprensione, sulla comprensione, sulla percezione immediata e non scandita e non diciamo successiva, di per sé non ha. Allora uno si chiede, ma allora perché si è sviluppata la critica d'arte da un certo punto in poi? Vabbè, adesso pensiamo a quella del Rinascimento, ma in fondo anche nella Grecia classica, perché Platone può discutere nella Repubblica o nel Cratilo o nel Fedro, mi pare, sì, anche di cosa fanno i pittori, cosa fanno, quali sono le caratteristiche, cioè, è chiaro che è stato fatto. Allora, è stato fatto perché, la mia ipotesi è questa, è stato fatto perché la comparsa delle immagini in un mondo ipoteticamente già dominato dal linguaggio, questo ve l'ho già detto, lo vediamo, noi non possiamo essere sicuri, però noi abbiamo prove della produzione di immagini da un certo punto, della storia, diciamo all'incirca 40.000 anni prima di Cristo, 35 anni prima di Cristo, ad un'epoca quindi in cui supponiamo che l'essere umano parlasse già. Homo sapiens nella sua versione più di recente esiste da almeno 60.000 anni, nella sua versione più estesa da 250.000, forse anche più anni, e dal punto di vista di una linea evolutiva di animali che già avevano alcune caratteristiche simili a Homo sapiens 1.500.000 di anni fa. Anche nell'ipotesi peggiore che di questi nostri antenati nessuno parlasse, soltanto Homo sapiens parli, si parla da almeno 250.000 anni. Si fanno immagini per quello che siamo noi soltanto da 40.000 anni. Quindi l'immagine arriva in un mondo che è già dominato dal linguaggio. Ci arriva nelle condizioni in cui, quindi in un mondo che è ancora senza scrittura. Chiaramente penso che sia difficile che molte persone, che molti esseri umani si siano resi conto in maniera cosciente fino a quando non è stata inventata la scrittura di qual era questa specie di bomba che si stava introducendo nel linguaggio. D'altra parte le ipotesi che si fanno sulle pitture murali di Lascaux, sulle pitture di Lascaux e di tutto quel periodo lì, insomma, ipotesi, certo, non possiamo fare più che quelle, ma sono le ipotesi più accreditate, cioè che queste immagini fossero degli strumenti di riti magici, degli strumenti di riti volti a propiziare la caccia. Ma anche se così non fosse, anche se si fosse trattato per esempio un'ipotesi opposta che avessero funzioni narrative, la caccia al bisonte. In entrambi i casi si vede che questi nuovi oggetti culturali si sono inseriti in un mondo in cui il linguaggio era comunque lo strumento culturale predominante. Le immagini da Lascaux erano molto probabilmente in tutti i casi possibili inserite dentro un sistema di azioni, di comportamenti, quindi dentro un sistema di eventi sociali, che fossero un rito magico o che fosse il racconto di qualche cosa, in cui era la parola l'elemento fondamentale, come era la magia la parola l'elemento fondamentale. L'immagine ha un ruolo importantissimo perché ovviamente è quella che colpisce, perché ha queste caratteristiche percettive che ti incanta, che ti fa e crea questo rapporto e ti incatena in qualche modo, e ti crea. Però se poi non hai la formula magica non c'è nessuna magia che funziona in nessuna cultura. Da un punto di vista narrativo l'immagine del bisonte facilita, ma se non c'hai qualcuno che ti racconta come è stato cacciato, cosa ha fatto il bisonte, quanti uomini ha ucciso, quanti ne ha fatto, com'era, eccetera, non funziona neanche quello. Allora, sinteticissimamente, l'immagine non ha mai scalzato il predominio culturale della parola nella storia dell'uomo sino a circa un secolo fa. Un secolo fa è successo l'inenarrabile, questo grazie alla fotografia e grazie a quella piccola deviazione tecnica che è consistita nella stampa dell'immagine fotografica su carta comune, quindi su fotocalco, da quando compaiono i fotocalchi sono il segno della rottura. Di lì a poco viene il cinema e di lì a qualche decennio la televisione, ma quella è la prima rottura. Per la prima volta nella storia dell'essere umano il rotocalco dà la possibilità di una comunicazione, di una informazione che tendenzialmente può fare a meno del linguaggio. Io guardo le foto del matrimonio di Elisabetta o dell'assassinio di Kennedy o di qualunque o dello sbarco sulla Luna, di qualsiasi cosa, e ne so tanto, e io penso anche forse di più, di quanto ne sappia se se avessi letto una descrizione di quella cosa. L'immagine mi dice, pictures don't lie, le immagini non mentono. È una menzogna che le immagini non mentono, è ovvio. È una profonda menzogna, le immagini mentono. E come? Ma nella percezione comune, da quando scopre che questo cazzo, ho visto, diciamo, è la prima volta nella storia, diciamo, dell'uomo che l'evidenza del vedere, l'evidenza, può vincere sul potere di convincimento del linguaggio. Il linguaggio, anche se io grido, urlo, come i sostenitori di Berlusconi in Parlamento, anche cose becere, faccio un comizio e tutto, in realtà il linguaggio dentro di sé ha una persuade, cioè convince in qualche maniera, in maniera razionale, la gente. È vero che c'è stato l'uso magico del linguaggio, eccetera, eccetera, eccetera, però anche lì, insomma, vabbè, perché c'è una razionalità, perché anche nella, come dire, magia è all'opera una diversa razionalità, un diverso modo di, ma c'è sempre una questione di causa ed effetto, c'è una catena, diciamo, causale nel linguaggio, che è insita nella natura del linguaggio, perché è sequenziale, perché si deve sviluppare, diciamo, nel tempo, in qualche maniera mi lascia lo spazio per una interlocuzione, per poter dire la mia. L'immagine non mi lascia questo spazio, io non posso dire la mia di fronte all'immagine. Posso solamente gestire il mio rapporto emotivo con quell'immagine. Tutto quello che gli costruisco sopra, eventualmente, e posso farlo evidentemente con strumenti linguistici, rimane comunque periferico, non tocca quella specie di nucleo indescrivibile, difficile, però chiaramente esistente, che è quello che domina e quello che governa il mio rapporto con, diciamo, l'immagine. Detta in altri termini, non che la parola non sia, figuriamoci, anche la parola, però da un certo punto di vista l'immagine è lo strumento perfetto per una società totalitaria, per una società che distrugga, che renda più difficile sino a estirpare totalmente la capacità dell'essere umano di contrapporre un discorso ad un altro, una parola ad un'altra, di creare una dialettica, di criticare, di immaginare un mondo, diciamo, diverso. Questo è un altro dei sensi in cui potremmo leggere la critica di Flusser alle immagini tecniche, completata con l'osservazione che ho fatto io, che non fa lui, che l'immagine tecnica non fa nient'altro che rendere, che fare affiorare, che fare emergere caratteristiche che l'immagine aveva sempre avuto, ma che non si erano pienamente sviluppate. E il controllo che la parola esercitava sull'immagine in qualche maniera mascherava la cosa. Insomma, nel momento in cui queste caratteristiche sono uscite fuori, nel momento in cui l'apparato che ha costruito queste immagini nuove ha dato la possibilità per la prima volta di moltiplicarle a dismisura, almeno tanto, se non di più, quante sono le parole prodotte all'interno di questa società, oggi sono le immagini. Non occorre, cioè, è la nostra esperienza di tutti i giorni, cioè siamo sommersi dalle immagini per le strade, a casa, sui tutti gli schermi che abbiamo solo delle immagini, solo delle... E insomma, in qualche modo, con il dispiegarsi della modernità, l'equilibrio tra prova e immagine si è rotto e si è praticamente rovesciato, mentre sino alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento, a predominare, a controllare, ad avere l'ultima parola, era la parola, un gioco di parole, ma nell'ultimo secolo è cominciato un processo per cui l'immagine nella costruzione dell'immaginario sociale, l'immagine è stata predominante. Adesso è una, è un po' una stupidaggine, ma il termine stesso di immaginario, che nel, inteso nel senso in cui lo intendiamo adesso, cioè quell'insieme di processi che sono insieme un grande deposito di immagini, ma anche una possibilità di crearne di sempre nuove, non a caso che è uscito fuori a metà del Novecento. Nessuna, nella cultura occidentale non c'è prima la nozione di immaginario. Se c'è oggi qualche ragione, come dire, ci sarà, è perché l'immagine ha un ruolo, se non vogliamo proprio dire che ci sia rovesciata la, chiamiamola, gerarchia immagine-parola, quantomeno l'immagine ha un peso nella società, diciamo, moderna, sviluppata, quando la modernità è arrivata al suo culmine, cioè nel corso del Novecento, alla fine dell'Ottocento, poi nel corso del Novecento, ha un ruolo indubbiamente. E allora, da questo punto di vista, la sua adeguatezza, il suo essere particolarmente predisposta per le caratteristiche di controllo di una società, cioè insomma la sua conseguenza di diminuire o di indebolire le capacità di critica all'interno della società sono fuori discussione, che, cioè, è ovvio che le cose stanno così. Allora, il problema che ci si pone adesso quindi è questo, lo estremizzo un po', ma insomma, se tutto questo per l'Occidente è il frutto di quella famosa discussione del X secolo d.C. fra iconoclasti e iconofili, ed è la conclusione ed è la conseguenza a lungo termine del fatto che gli iconoclasti hanno perso e hanno vinto gli iconofili, e quindi la cultura occidentale, perlomeno la cristianità, ha accettato, diciamo, l'immagine all'interno dei suoi strumenti, diciamo, culturali, cosa che, ripeto, non è accaduta per altre, per le altre due religioni, perlomeno non nello stesso modo, insomma, perché non che siano culture totalmente prive di immagini, però insomma hanno delle immagini, le immagini che loro ammettono sono diverse dalle nostre. Allora, se questo è vero, che cosa dobbiamo fare? Se volessimo eventualmente, se ritenessimo che la possibilità della critica, che le armi del linguaggio, che la possibilità di utilizzare il linguaggio per immaginare, progettare e eventualmente anche costruire, se ce la facciamo nella pratica, una società diversa da quella che ci viene consegnata, ma se il predominio, se davvero il predominio dell'immagine rende, se non impossibile, molto più difficile questo, come dire, strumento, allora vuol dire dobbiamo concludere che avrebbero fatto meglio a vincere gli iconoclasti, o dobbiamo concludere che sino a che ci sarà questo predominio dell'immagine non potremo fare nulla di realmente, perché, diciamo, il linguaggio sarà ormai perdente, sempre più perdente nei confronti dell'immagine. Una possibile risposta a su questi problemi potrebbe essere questa. In realtà Flusser, vedete, che ci suggerisce un'altra risposta, dice: no, però guardate che anche nel caso delle immagini tecniche, o perché, dice lui in un passo, alcuni degli strumenti di produzione dell'immagine, per esempio le telecamere, le cineprese, sono ancora un po' meno sfruttate della macchina fotografica, su questa cosa si può discutere, questa non sia una roba di granché, allora lì per esempio si può sperimentare di più. Nella foto, dice lui, non si può più sperimentare in quel senso lì, però si può, dice lui, anche nel caso della foto, ingannare, diciamo, l'apparato, si può ingannare l'intenzione della macchina, l'intenzione delle macchine di farci produrre le immagini che vogliono loro, e quindi sono le immagini transapparatiche o le immagini quiete, eccetera, eccetera. Allora, adesso, dopo la pausa, nella prossima ora vi leggerò un breve testo di Walter Benjamin, di molto precedente, di qualche decennio precedente, alle ipotesi di Saflux, cioè degli anni 30, perché poi Benjamin è stato morto nel 40, più che negli anni 30 non poteva scrivere, nei 20 e nei 30, sono i due decenni in cui ha scritto. Un breve testo enigmatico, un po' difficile da capire, forse anche, non è detto quindi che il modo in cui ve lo leggo io sia quello reale, in cui c'è un tentativo analogo. Non c'è, il testo è molto breve, quindi adesso poi io non è che conosco bene, può anche darsi che se vado avanti a studiare un po' bene mi trovo altre cose, insomma, comunque. In parte l'idea è simile a simile, ma non è. Comunque i temi possono essere messi in relazione con quello che ha scritto per esempio nell'opera d'arte nell'epoca della società tecnica. Questo testo forse è di qualche anno dopo, perché forse è uno degli ultimi testi che ha scritto per Parigi Capitale, che è una Parigi Capitale, vi ho raccontato 50 volte come è fatto, quindi in gran parte sono materiali di altri, più due o tre saggi e una serie di annotazioni sue. Queste sono alcune delle sue annotazioni. Il concetto compare in varie note affini a questa è una delle più lunghe, anche se è molto breve, e quindi vale la pena, e quindi voglio chiudere la parte su parole e immagine con questa cosa di Benjamin. Se volete approfondire un po' la cosa con un sacco di altre considerazioni che non vi faccio, Giorgio Agamben ha usato questo testo nel suo librettino, perché si chiama Ninfe, e quindi forse lì capito, perché il testo non è stampato se non nella gigantesca edizione di Parigi Capitale, che evidentemente né vi impongo e neanche vi consiglio di, perché è un bel libro, ma insomma poi è un libro molto difficile, che è molto complicato, però basta che sono. Siccome il testo è breve, ve lo leggo, poi forse si trova anche in rete, ma non so bene. Allora, 5 minuti di pausa e poi ricomincio.